capisco. Non capisco cosa stai dicendo, capito? Capote. A me non me l'ha mai fatto, ho sempre messo quei fusibili lì e non me l'ha mai fatto, non mi sono mai partiti quelli. L'altro giorno ne ho bruciato tre, e allora non è questione di cose, è questione che c'è qualche corto, rischio di bruciare l'apparecchio, se lo metto più grosso, passa la corrente e ti brucia l'apparecchio. E quindi ho opzionato per fare un'altra cosa, ho fatto asciugare bene la capota e ho pulito i contatti della batteria, li ho messo il CRC, l'ho messo lì e nel contatto dove ci mette il fusibile, beh, metto il coso, parlo e non parte più. Questo esempio te l'ho fatto per dirti che io non mi fido molto della cosa elettrica e tantomeno delle macchine, che non danno molto affidamento quelle macchine lì. Fai sempre i chilometri, che cosa ti si prende in carriera, o se perdono umidità, o se c'è neve, cioè le voglio vedere queste macchine qua elettriche camminando nella neve. Poi c'è anche un'altra cosa, che queste macchine elettriche non si sentono, sono silenziose. Ti mettono sotto e manco te ne accorgi. Sì, certo. Santiago 3 però ti ascolta. Cosa stai facendo? La prestanza nella torretta? Quando arrivi di fronte alla chiesa di Balai lontana, ti metti quello spiazzo che c'è se c'è posto e lì dovresti arrivare bene. Adesso lo sento a fatica proprio Cristian, eh? Anche io lo sento basso, ma già lo sento, interessante sentirlo. No, io, grazie a Dio, con l'antenna che c'ho va bene, va molto bene, mi ascoltano tutte le parti. Tu c'hai? A me le mitrate non mi sono mai piaciute, se voi comprate, usavo o Sigma oppure Red come antenne. Non ne ho mai preso mitrate, non mi sono mai piaciuto. No. Guarda, la Turbo 2001 è lunga e chi va in campagna forse non va bene perché tocca gli alberi e tutto quanto, però è una signora antenna. Io, per me che facevo la strada, sa se il conduttore era l'ideale. Ecco, per me la moto per macchina. Avanti, capo. Tu come la pensi? Sì, quella Turbo 2001, quella è eccezionale. E il problema, le antenne alte, però in città se devi entrare in un sottopassaggio, in un, che ne so, nei parcheggi sotto ti tocca dappertutto, devi stare sempre a toglierla, a rimetterla, la scocciatura è quella, per cui si cerca di trovare un compromesso, cosa che io ancora non ho trovato, perché non dovrei trovare un'antenna che non sia troppo alta da utilizzare con la base magnetica, eventualmente poi staccarla quando non passa più, però non vorrei neanche una cosa troppo alta, anche se la resa migliore la danno quelle purtroppo. No, ci sono anche antenne che non sono alte e hanno della buona resa, tipo, cosa ti posso dire, la Frusta Nera è un'antenna che tra le migliori che c'è, è difficile trovarla ancora, ma penso che ci sia qualche casa che la Sirio mi pare che le faccia. E vanno molto bene, sono caricate, hanno la carica tutte giro in giro l'antenna, e ricoperta poi la carica di una plastica e cose, e praticamente hanno uno stub finale dove tu puoi regolare il stazionario. E isolante perché parlo, ma molto bene. Io a Franco, quindi lo sentiamo da tutte le parti, va Ghero, va qua, va là, da tutte le parti lo ascolto. E l'antenna non è alta. Chissà che la vorrei provare anch'io quel tipo di antenna, capito? Solo che tutti la chiamano frusta, però non sai se c'è in produzione, se è l'azienda che la produce, qual è. Mi sa che le fa l'assidio, controlla per bene. Se ci sono quelle dell'assidio dovrebbe esserci. Frustare l'assidio, scrivi così e te la dà se c'è. Se no lo cerco io, guardo io. Adesso l'ho messo in ricerca, vediamo se la trovo. E avanti. No, va. Dove sei arrivato? Senta che le filmatiche di fronte alla chiesa di Balai, che lì c'era il punto per vedere quanto arriva. Occhio che non ci siano coppie, perché lì c'è per le coppiette di noi. E beh, gente mala. Come a tu? Sì. Allora. Tu ancora in radio siamo, buonasera. Ma che ore sono? Di cena, le 8. Oh, io di cenare tutto non ne ho voglia oggi. Non mangerò con una mozzarella lui perché non ho voglia proprio di mangiare. Ho mangiato queste le melanzane a pranzo, c'erano calamari, melanzane di quella funghetto e mi hanno riempito un... Io invece ho già mangiato. Prima niente, sempre prima niente. So, mica si prende il telefono. Bravo Natalino che ha mangiato, mi lo fai il routino via adesso. Pizza. Mi hai sentito? Ah, ti ha risposto mia moglie. Cosa avete? Pizza a 4 stagioni. Ah, ho detto non fare il routine natalino, dai le pacche sulle spalle come si fa con i bambini, io si fa il routine. Lo fa giù l'ha mangiato. Che allagato, ah, era mamparino. E chi è sotto? Cristian! Ehi! E come ti mangi a livello terra a terra oggi? È a posto d'ora! Ah, ecco! E tu me lo stai buttando un po' contro il punto? Ora, ora! Già ti sento qui, tu a me intendi a posto d'ora. Sei un bel basso arrivi, a Santiago 3 sei. Penso che sei proprio in zona negativa, non so Gianni, magari ti sente meglio di me. Avanti già. Prova, Cristian. Santiago 5. Sì, a Balai, Cristian. Io da lì arrivo con un V5, tutta la macchina mia, vabbè che c'è una trantella. Adesso stai aumentando. Vabbè, ma di là arrivi bene. Anche qua è Santiago 3. Ma qui no. Ma concordo, caro caro. Buonasera a tutti, è molto zona negativa per me Polo Torres. Peccato, la zona industriale a vista mi resta coperto. Vabbè, salutatemelo dai. L'hai sentito Marco, Cristo? 9:30, dai. E io quando ti arrivo? Oh. Allora la donna Buzzo, dove ci vedono le altezze? No, già, no, no, no, già, no, Gianni, scusate, buonasera a tutti, Ecco, così è normale, Così non arrivo, grazie. Riprendi Carlo. Buonasera Marco, sì, Cristian è un po' bassino, però io già lo sento, lo capisco qua, Santiago 5, la radio è un po' bassa, capito? Ehi, Arisa, dai, siamo qua, facciamo già la ruota di tanto, che qui sta già ritornando, avanti caro. Detto che Cristian già lo sentivo anche io qua, però la radio è un po' bassa e anche si era abbassato il segnale, non so dove fosse, mi aveva detto che arrivava forse a Balaio e poi tornava indietro. Io sì. Ma non so se sta passando dal conduttore o dalla Budi-Budi, penso dalla Budi-Budi perché lui abita lì. E Ghiscio? Sai che giocare, la gente è tanto ora, ma... Santiago 7 arriva qua, boh. Fino a chi devo che va, a che cosa? Oh, io, per carità. Oh, tocca a Natalino adesso, avanti Natalino. Ehi dai, sono in ascolto, sono tutta la sera in ascolto. Da lì, ma tu in macchina la frusta stai usando? No, la PLC 800 ho io. PLC 800, ho capito, adesso me la guardo. Quella è bella, quella imbatte, mi dillo a Gianni. Abbiamo fatto le gare, io e Gianni, lui c'aveva la 2001 e io la PLC 800. E arrivavamo più o meno allo stesso segnale. KK, vabbè, i baracchini erano diversi, ma più o meno erano di quegli omologati. KK. Vabbè, comunque, hai guardato se c'è la frusta nera o K? Sì, sì, c'è della Sigma Antenne, la fa quella ancora. Ah, ecco, è corta di banda quella. Una buona resa, sì, però effettivamente non è... non copre una grande banda, dai. Ehi, sono fatte per quelle radio antiche che avevano 23 canali, capito? Ti fa stretta di banda. Ehi, sono più larghe di banda quelle lunghe. La frusta nera tipo 1,40 della Sirio ne fa tre modelli, corta, media e lunga. Il Sirio le fa anche abbastanza bene nei materiali. Vai Carlo. Capito, io ne devo trovare una che non sia eccessivamente lunga, capito, e devo trovare un po' una via di mezzo, ma che abbia una buona resa, capito, perché quella che ho non è che va bene in macchina, è troppo, forse è troppo corta, è della, non so se è dell'Alan, forse è dell'Alan quella che ho io. Lunghezza modello, te lo ricordi? La Mini Snake, mi sa che si chiama così, no, è corta, sarà una settantina di centimetri. Se vuoi la resa devi avere l'antenna lunga, più corta è l'antenna e più poco tieni. Come noi, più lunga è più pompa. Beh, purtroppo è così. Te la misuri? È la legge. Capito? Se tu usi un'antenna corta ottieni poco, invece se l'antenna vuole almeno un quarto d'onda. E KK, io già ne ho anche una bella di antenna della Midland, però è troppo lunga, è 2 metri. No, quella PLC 800 va bene, vanno bene da 1,60 vanno bene quelle da 1,60 1,50 le antenne, vero Marco? Diglielo tu che ne sai. E vabbè, io Carlo premetto che uso solo la base magnetica. Nel 2010 avevo comprato questa Midland ML145, poi la facsimile, la Sirio e tanti altri. È 1,60 m massimo, e la base magnetica era da 12. Poi adesso si era rotta quella base Midland e sto usando una base Sirio da 16 cm. E non l'ho mai cambiata, francamente non sono kilowattaro, cioè fino a 500 watt picco picco li regge, quindi se metti un 747, un 203 va di lusso, non l'ho mai cambiata. Poi va bene, ho preso più piccole, ma non rendono. Poi da poco ne ho una di 1 metro, che è una via di mezzo, però non c'è paragone, almeno 1,5 metri, guarda, 1,5 metri già la regia è discreta. Se poi ce l'hai a centro capotta col buco sulla carrozzeria, che vabbè è un po' impegnativo, è meglio ancora. Scusate che... Ho capito Marco, ripetimi il modello, questa da 1,5 metri, Midland. Allora, Midland Mike Lima 145. La fa anche la Sirio, sempre si chiama tipo ML145. È un'antenna poi banale, mi se vogliamo, cioè non è un'antenna che regge kilowatt, è un'antenna che regge quei 500 watt picco picco, quindi continui saranno 150, 200, ma non di più. E chi li usa poi 200 in macchina? Io no, francamente. Guarda che è chiamata anche kit 007, perché la vendono spesso in abbinamento con la base magnetica da 12 della Midland. Sì, sì, adesso la sto visualizzando. Sì, anche diciamo una certa larghezza di banda, va da 26 a 30 MHz, già sembra buona. Però quello, diciamo, quello è il range dove la puoi accordare, ma non copre tutto da 26 a 30. Allora ti faccio un esempio, io ho tarattato il centro banda sul 40 e ho 1,2 circa sull'1 e 1,2 sull'80, quindi puoi andare molto oltre, puoi andare anche sui canali sotto un po', almeno una banda sotto, fino a 27,9, insomma, non dà problemi, ecco. Ho capito, da provare, sicuramente la prenderò questa, perché non costa neanche tanto. Guarda, ti dico solo una cosa, i prezzi sono saliti parecchio, vabbè, sono passati anche un saccaccio di anni, io l'avevo presa nel 2010, ma ho visto i prezzi attuali e mi sono spaventato, cioè fanno pagare 60-70 euro antennini da 65 centimetri, cioè, ma questi sono matti, vabbè, comunque, tant'è, già ne riprendi bianco per me. Vabbè, comunque come detto non carino, le antenne più antenne sono meglio qua. Accurata, ne ho avute tutti i tipi, ne ho autocostruito pure di antenne. Ne avevo una piccolina che andava bene, Sasa di Portottore se arrivavo bene. Però se passavo in mezzo imparato non mi sentivano più, invece con quella grande ti sento, lo basso ma ti sento. Sai cosa sarebbe ideale già? Da usare da fermo, però, solo da fermo, da montare da fermo quando arrivi in zone strategiche, un'antenna da 2,75 m, da montare da fermo ovviamente, perché sennò è uno scandalo, però è il massimo del quarto d'onda quello, c'è un quarto d'onda full size. Me. Guarda, io ho fatto questa paragone, ho piazzato sullo stesso attacco due antenne, la PLC, ma la... non la PDC, cosa sto dicendo, la Turbo 2001 e la Mini Turbo, tra una e l'altra c'erano tre segnali di differenza. Aspetta, quelle detto ripete già. La Turbo 2001 e la Mini Turbo, che è sempre con lo stesso attacco della Turbo 2001. Ma tu intendi tre punti, intendi tre decibel o tre Santiaghi? Tre Santiaghi. E cacchio, cioè tu con la macchina ferma, tolta una, messa l'altra, tre Santiaghi di differenza. Cappa. E così è. Allora, che cosa è meglio? Più corta la diretta è meglio. È così. E cosa c'è? Io quando devo entrare in posti bassi l'abbasso l'antenna, non la tolgo, l'abbasso, smollo appena appena, l'abbasso, entro e poi quando esco poi la rialzo. Ma così Gianni, le prove le abbiamo fatte, quelle piccole non rendono. Ci vuole l'antenna lunga, non c'è nulla da fare. Vuole della lunghezza sua, perché se tu la accorci è quella la canzone, rende di meno. E tre Santiaghi sono molti, guarda. È che io non ho toccato manco le stazionarie, perché ho provato a girare le stazionarie e ci aveva 1-1 dal canale 1 sino per dire al canale 5, poi 1-2 sul canale 10, dal 10 al 15, poi salivano al massimo a 1-3, non ho toccato, e tu magari poi la tocco e molto casino, invece la lascio così e vanno benissimo, tanto non salgono più di 1-3. Con quelle tre, la piccola, la media e la grande. La fermo però, mi serve un punto strategico, tipo la zona coppiette, no? Gianni lo sa. Riprendi Carlo, vado a bere. Ah, poi io mi metto anche da un'altra parte, ma l'altra zona è il parcheggio delle querce. Io da lì ho fatto un VX con l'Inghilterra dalla macchina. Io l'ho fatto in via Mardinutti. Con l'Inghilterra proprio, dalla macchina. E l'antenna era una Sigma DX, bianca, me lo ricordo ancora, quando avevo 127 l'antenna. E anche io ce l'avevo quella lì. Sulla visa l'avevo piazzata, te lo ricordi? Sì, vagamente me lo ricordo, sì. Io mi ricordo che avevi la Marenco, che era una macchina che non avevo mai sentito nominare. L'ho conosciuta da te. Ma c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Mi si accende un attimo di bianco. Cappa, già mi sono capitato io. Buonasera, Cappa. Buonasera, buonasera. Ho detto Marco, mettetemi tu e Gianni, uno a fianco all'altro, io mi metto in mezzo con quella macchina che hai visto. E con quell'antenna, col carro armato vorrei dire, mamma li turchi, guarda, non avevo mai visto un'antenna del genere, è un mollone del genere, quello è proprio di carro armato. Tu figurati, da Piazza dei Cedi arrivo 9,20, 40 metri con l'antenna, senza lineare, e tu già c'è nel cofano, senza quel bestione che c'è nel cofano, 9 più 20. Ma c'è un impianto con la macchina da paura, veramente molto molto bello, ha visto che c'è, non manca niente, VHF, VHF, HF, tutto, bella la diretta, buonasera a tutti. Ciao, ma io mi ricordo di averne visto uno di fuori strada con un mollone di quelli che si usavano prima con l'antenna 275 in ferro, tutta i bagli. In alluminio, ma non so se sia quella che dico io, Ma che colore è, grigia? Non me lo ricordo il colore. E comunque, vabbè, una ce l'aveva anche Walter, un'antenna così per fare. Vieni da Marco, quella che ho io. Quello che sto usando io, l'impianto che ho nella macchina, nel fuori travaglio che ho io. Va bene. Bene, va Marco. Sì, Gianni, Claudio mi ha fatto vedere un parco di divertimenti, un parco giochi, ecco, con la macchina dentro. Ci manca solo un computerino con lo schermo per decodificare i modi digitali, in modo da averli a schermo, e il waterfall ed è fatta. 5.000 euro di impianto c'è con la macchina, Marco. Come, Cla? 5.000 euro di impianto c'è con la macchina. Per come è fatto e per l'attrezzatura che c'è dentro. C'è chi può, porca miseria. Ma bestia, sembra che sia a casa. Parli con tutti, sembra che sia sempre a casa, non c'è tregua da tutte le parti. Ma che c'è anche cuoco, ma c'è. Quel signore vuol dire che può... Claudio, raccontagli la scena dell'antenna, della presunta antenna bibanda. Ho fatto il giro piazza di sci, sono passato lì da Roberto, poi sono salito, ho montato l'antenna grande, adesso mi vado un po' piazza di sceni a provare in 40 metri, avesse rulla. E lì al centro di piazza di sceni questa macchinetta grigia con questa base magnetica, uguale all'antenna che ho io, precisa identica, VU però. Andata lì, uguale, precisa, stessa base magnetica, beh, la base magnetica non ne ho, è centrotetto. Sono arrivato le blu, adesso mi avvicino a vedere, ma qualcuno di fuori si è fermato a fare qualche prova. Cazzo, una visina della Marco Condor, c'ha l'antenna la 27 uguale a quella delle U e delle U. E c'è un po' cuomane. Questo cane è morto, te lo immagini? Cuomane che non c'è altro, ma via Boggo, tre baracchini sopra il cruscotto, tarando, facendo strumenti, contro strumenti, agito boh. E poi il rosmetro buono anche, non ZG. ZG, quello è il numero uno degli strumenti, veramente molto, molto bello professionale. No, adesso te ne dico una, c'è Carlo in bianco, aspetta, vediamo se riprende. Carlo, ci sei? Però non ve ne siete manco accorto, ho detto che staccava che l'hanno chiamato a cena. No, io ogni tanto mi distraggo. Ti volevo dire, guarda, io per come sono pignolo, sempre che ho portato più di un apparato, perché se c'è qualche apparato che ha l'impedenza non perfetta d'uscita, ti falsa anche le stazionarie quando vuoi attaccare l'antenna. Allora io ho provato le stazionarie con i due apparati diversi o tre quanti erano. Ed erano uguali, cioè l'impedenza degli apparati di uscita era tutto uguale. Poi ho provato due basi magnetiche diverse per vedere se cambiando base magnetica mi cambiavano le stazionarie, perché ho detto se la taro per una base poi mi si rompe, devo usare l'altra, va ritirata tutta da capo. C'è la pignoleria mia, ci ho messo roba di 2 ore, mi. Io sono rimasto anche quando te ne sei andato, mi. Vabbè, c'è un appuntamento, già sentito il telefono dopo. Andare a casa di un amico, se no sarei rimasto a farti compagnia, tutto qua. Vabbè, Natalie, già lo sai cosa sto usando, quindi non ci sono dubbi, ma veramente eccezionale quell'impianto, una cosa pazzesca, quindi già l'ho visto Marco, c'è di tutto qui, tutte le unità sono nel cofano, attaccate bene, tutte in fila, e i frontalini sono tutti dentro la macchina, con i connettori poi, non è che, hai capito, ci sono i connettori, come si chiamano quelli Marco, l'hai visto vicino alle marce, dove tu inserisci e disinserisci i microfoni. E come ce l'avevo io l'857? C'avevo il frontalino solo davanti, dietro c'avevo l'unità centrale, quella era una belva. Comunque Claudio, io per le VLU avrei messo qualcosa di più. Quella era la classica da un metro, no? Tipo NR770H, cos'era? No, la R con la spiralina. Una bella, come quella che aveva Vittorio una volta, come si chiama? La Diamond, la 7009, come si chiama? Quella da 1,58 m. Sì, Diamond NR, boh, vabbè, SG7009, quello è un mostro. Mi pare sia 7 ottavi d'onda in VHF e 3x5 ottavi in UHF, tipo è tipo la X50. Claudio, digli la collineare mia. Tipo quella lì. No, ma ce li ha. C'ha tutti gli stili. C'è a caricare tutta la macchina, cosa? Ce n'è. E ne ho 4-5 di stili, HF, ne ho altri due stili per le V e per le U, c'è di tutto, Marco. Ui, lascia perdere. Va bene. E beh, Gianni, taglia, portatelo. Ma io al contrario c'è tutta la sera in giro, adesso se ne ho voglia lo porto, l'ho portato tutta la sera se non io l'ho caro, per cui ho fatto tutti i bisogni, se ne ho voglia lo porto adesso ancora un po', ma avevo temendo magari, perché sino alle 7 eravamo in giro, quando c'era il sole tutto eravamo in giro. Allora, ti va bene. No, c'è freddo. Mi è uscito quello fa fare la pipì, il resto ha fatto tutto, ma la sera fuori, niente, mia moglie non c'era. Sono uscito a fare il carico del pelle e a fare altre cose. Antonio! Ehi, dimmi Claudio! Ehi, niente. Ehi già, ma stanno arrivando gli articolati come prima. Io infatti ho aumentato il carico, però stanno iniziando a scarseggiare tutto. Stamattina mi è sceso un raio, beh. A 2,06 il gasolio rifornito. È un bel caro, eh. Ma ha detto Sara di dirti che ha perso 20 kg. 23 kg. No, davvero. E infatti è molto più magra adesso. Hai visto che ce l'ha fatta, e tu quando ce l'ha fai? Là ce la bacia asciutta. Ah, me la fottino da me, quando faccio fammi magno. E lui ha fatto sabato domenica, io. Yes. Mamma mia, che ho messo. Vabbè. Quando ci vuole, c'è via il cuffo. Sì, già. Sta scarseggiando. Infatti andavo lunedì a fare il carico, oggi sono andato. Mi ha detto non venire più tardi di martedì perché non trovi niente, ci stanno portando via tutto. Quella amica mi ha detto che era andata a Sidem e ci ha fatto portare una pedana intera e l'ha messa tutta in garage perché anche lì stava scarseggiando. Qua da Italy non ce n'è più, da Nona Isa non ce n'è più, c'era scritto io, vabbè, io non ne ho stupamente, ma sento le persone che lo cercano e non le trovano, per quello che lo sto dicendo. No, vabbè, io faccio il carico a pedana lo stesso, però ad esempio io stavo andando ad Abete e Abete non mi hanno mandato, non è arrivato e quindi sono dovuto passare al Faggio. Capito? Io prendo una Isa nei supermercati, no? Io vado con quello stabilimento che c'è a Caniga lì, di fronte a Scandellari, mi pare, c'è uno stabilimento lì, c'è anche le bombole, mi pare, hai capito chi è? Ho conosciuto già ho capito chi è. Ma adesso sta scarseggiando perché poi adesso non lo fanno il pellet, lo fanno dettato il pellet, capito? Poi ho bisogno pure forre di bane che virani e ne prendo una quantità esagerata. Per esempio c'è quello del forno di Oceano che va a pellet, c'è doppia alimentazione, pellet e gasolio. Io al sacco pago 6,20, 6,50, 6,80, dipende. Ad esempio il faggio l'ho pagato a 6,50 al sacco, fate il conto. Ci vuole una bella botta. E vabbè, però è così. Mentre invece l'abete lo stavo pagando a 6 euro. Vabbè, quindi Marco è finito di tarare tutto a posto. Non volete fare prove, ma lo dico, mi metto in mezzo. Ma così ci puoi fare brutta figura. Io ho fatto le prove, andate a fare i segni e porto questo ZG a vedere se va. Ehi, bisogna fare, ho detto oggi. Ma gli amplificatori rubofono che cante lo sportello, bomba. Guarda se ti arriva qualcosa, Claudio. Qualcosa? Sì, sì, sì, mi è arrivato. Mi è arrivato, mi è arrivato. Adesso voglio vedere. Ecco una bella bestia con l'HF, la 030, una bella bestierina. Gli schirriggia, gli schirriggia. Cattali! Oi! Ma è tant'è, non c'è la faccia, la storia. Siamo a Biazzemo, aspettate. Aspetto che ci sia prima piatto le staffe, c'ho già tutto pronto. Barra filettata, tutto bongo di Ravonde, non è bongo da Sellino. Lo sai, me ne varia tutto. Ah, più a fondo come aveva fatto Fabrizio Messu a fermarsi. No, ho messo due staffe, no? E a Cantone, intanto il muro, l'avevo fatto fare a Cantone. Non lo pitti, quindi va bene. Già va bene, aspetta per vedere cosa mi è arrivato al telefono. Gianni, riprendi. E pure che sera voglio provare, voglio. Che di, ah, voi su che c'ha vesti ai nonchi, a vedere, si tira per questa antenna. Se non si sciogli. No, se non si scioglie chissà, si scioglie chissà. No, col mio sì, al tuo, è mio un bestione, non stai scherzando, ti era visto Marco. È a tre vento, ma è allucinante. Che cosa è? RM Italy, no? HF RM Italy 030, 3 ventole, uno pieno in HF. Ah là, bello, bello, quello mi interessa, bisogna provarlo. Ma sta lì, guarda il telefono. Ehi. Quello è bello, mi. Quello è bello, mi. Capo, quello mi interessa. Iu. Ho questa ammirazione, non so perché, non tanto quanto per le radio, no. Ho questa ammirazione per gli amplificatori. Vabbè, non c'è più nessuno ai lobby. Chiedaci. Avanti. Ma stai pistola. Eia. Fammi vedere, cos'è questa cosa? Fatta. Ho una l'ammirazione per gli amplificatori, oh. Per illuminarmi. Che dia, sta campagna e fotografia giù chi su chi va giù, te lo posso vedere un amplificatore a vivo, non di chi siamo affunenti. Arregalo i nocchi che lo provo. Mi bombe di corrente, se c'è 3 kW solo si spegne. No, si spegne la luce. Ma quale? Quello che c'ho io. No, quello che c'ha lui. Ah, io ce l'ho a valvole anche, ma ecco a casa io sto parlando della macchina, la macchina è un'altra cosa, la macchina c'è quello stato solido, 12 volts. Già lo so, di quelli HF sono. Il tipo quello c'ha Vittorio nella macchina, una cosa del genere, solo per fare che questo sia a 3 ventole, quello là è a 2 ventole. Sì. Ah, mi piacciono molto gli amplificatori, ogni tanto sono sempre su internet smanettando. Sono un amante di quelle cose lì. Ehi, ma avanno con ben assai, a chi la ruzzigoccia. Sto uscendo, sì. Se ha voglia. Ehi, dammi il controllo, come sto uscendo di segnale, guarda un po'. 925 radio 5 buono. Ok, va bene, già va bene, per il momento va bene. Adesso ci dovrebbe essere l'eco, no? Ia, la calecca, ciao. Mi hai riconosciuto, da in quella assassina. Vabbè, un po' quello. Ricotto a cotto, c'hai. Non è mio. Lo sto guardando. Ah, ok. Da un attimo, io vi saluto tutti. Ciao, Luca. Vi saluto tutti, dai, che stanno a portare il cane. Ci sentiamo, buona serata a tutti. Ciao già, beh, cazzo, si è fatto più sentire, boh, arrivi con l'assassino. Già, ti volevo dire, ti volevo mandare un messaggio. Lea, vieni dentro! Lea! Che hanno bruciato una macchina come la tua lì a nuova, mi. La gatta GE lì a Sant'Orsola. Questa qua però è la. Come la tua, però la cross. Ah, è l'ultimo tipo, quello che c'ha le barre. Sotto Romano. Cazzo, nuova, ma te ne dai conto già, ma arriva che non ce l'ha pigliata, ma cosa da pazzi, diciamo tre macchine bruciate, di cui una 600 che non c'è più, c'è una 500 nuova e un'altra, poi non c'era, tre macchine hanno bruciato. Ma quando? La settimana scorsa sicuramente, due settimane fa, dai. Sì, già l'avevo sentito che l'avevano bruciato. Perché fanno il giro, capito? Pagano la gente per bruciarle adesso. Qua mai sono che bruciano. Cazzo, e poi uno fa sacrifici, cazzo, per comprarsi un mezzo nuovo, ma anche che se ne compra uno usato, fa sacrifici comunque, capito? Ma vabbè. Bravo, dai, ciao già. Oh, bianco un attimo per me, sono appena arrivato, dai, ti prendete, riprendi da tu. Vai, qua, ma. Vai, per il vero. Ma non vedi la partita stasera. E allora? Che mica migliore, se la pide in quota, ma non mettiamo da in buscia, che ho salato le balle dell'Inter, della Juventus, del Milan, della Roma, che ha vinci, capelli bene, non mi interessa. No, vedi l'Inter, ragazzi, non ti interessa. E siamo in Champions. Campionato è un'altra cosa, qua c'è una squadra italiana, ci stanno fottendo questi francesi, questi inglesi, cazzo blu, sempre di Anivisi. Speriamo bene, tre gol deve fare l'Inter, e non deve subirne perché ne ha preso due, porca miseria, vabbè te la vedremo, vedi. Vai Antonio vai, ciao Gianni, alle prossimine. Ma ti vorrei fare tre? Ciao Luca, guarda il telefono. Ciao già. Via! Fare allora, ne ha pigliato due in casa, ragazzi. Cappagliappa, e pure faccio una fissazione. Ma domenica devo fare una goccia. E chi cazzo si vede questa cosa stessa, dice, cazzo, è corretto, ma quello è un che mi dice da voi. Ma lascia stare Antonio, lascia stare. E qualcuno con l'amplificatore a valvola ha pagato 2700 euro di luce, era bravo. L'hai già detto Mattolino, non è tempo di giocare con gli amplificatori. Si può giocare mica con questi transitorizzati, queste cose, ma lascia quindi le valvole. Perché se no arrivi l'Enel con la troncheggina, ah Mattolino. E taglia. No, vabbè, già non è molto. Però Marasucci già tira a Roma a te, se poi te lo uso meno possibile. C'ho 747, c'ho me, che va benissimo. E al tornaggio 4 di Nisci. 747, c'ho un giambalisto che ha tipo la 27 nuovo della CTE, 4 valvole. Ne ho gli amplificatori a valvole e poi c'è quello mio grande HF che quello non si tocca, però se riusciamo a fare bravo, perché un mio carissimo amico che Natalino conosce, nostro mio padrino a casa ha pagato 2700 euro di luce. Cazzo, ti hanno accusato. Portami il giambarista o cargo, lo proviamo. Non te ne do, no, cazzo, non te ne do, ma non perché non te lo voglio fare, perché ti spella tu, fai da bravo, ti ammazza, ho 5 valvole, cazzo, non lo sai quanto assorbi corrente con lineare, cosa devi fare, ma ammazzo sì, a voi già la dicevi invece. E mica bagulho, già paga Daniele che dà. Ah, Ah, da Daniele! Da Daniele c'ha problemi, dove la buia? Sì, non rilassi si prende, sai più. No, che quello mi uccida se vede che sa cosa. Ma cazzo è buffi oggi! Avevo intenzione di liberarmi, di fare, poi tomare, ma lì mi ho tolto le valvole, gli ho involte, le ho conservate, nuovo di fatto. Nuovo mi, della CTE, però il Jumbo della CTE, uno degli ultimi che aveva fatto. L'avevo comprato da un amico che se lo voleva disfare, quando era carbonati e non l'ha mai trattato. Esce le 9:20, no, io vi saluto, abbracci a tutti, ciao Natale, ciao Marco, Gianni è già uscito, Antonio e tutti gli altri, io vado a pappare e poi mi guardo la partita. Ciao ragazzi, Marco, quando vuoi chiamami e ci facciamo una rullata in HF con quel bolide. Beh, almeno ascoltare posso, dai, tu operi. E io faccio l'assistente, ti passo i ferri. Cosa riguarda? Entra qua vedda, cosa riguarda? A voi già, andate a restare a te. In quanto avete parlato, bubù. Ma che tu c'è lì, Antonio? Ciao. Ciao, sono tu, mi hai sentito. In quanto avete parlato, là? Cos'avete? Anche se tutti veloci con un microfono, tranne che quel cuoco ma è di Natalino. Ciao ragazzi, dai che vado a mangiare, un bacio a tutti, ciao. Ciao Cla, buon proseguo. Ma un lala ha pagato 2700 di luce. E allora, è andata bene. Io dico, l'hai aggiunto un coccolone. 9.700 a casa, 6.000 in officina. Oggi è un macello. Il gasolio lui si deve pagare pure per il... Mamma mia, sono spese enormi. Sì, solo col gasolio c'è 12.000, quasi 13.000 euro di incremento in più. Capito? Casino, un bel spese, vabbè. Non si sta ascoltando pure, viene il malumore. La macchina stamattina. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao, buona cena, ci sentiamo. Ciao, ma sta la caduta, apri i calori. La valvole, mamma mia, buia. Amplificatori, chi c'è una centrale nucleare, non è un amplificatore? Quello sì che ne fa scendere il topo dalla trave. Quello col pulsante verde, Cla, quello lì stava usando. Allora, ho usato il pulsante verde e poi è arrivato il pulsante rosso. E la virale di là, putidine. E la virale, però... Cazzo. Natalino guarda la foto. Yes. È meglio comprarsi la stufa. Io c'ho il lineare da, mi pare sia 3 kW di potenza, marcato Zibro. A me lo scuola scalda. Guarda, radiofrequenza non emette, però a scaldare scalda, E anche se dopo la stufa sempre questa casa, mamma. Marco, io c'ho la collineare per là, però così, però è più grossa. Ma voi, vediamo un poco, ma cosa avete detto? Claudio l'ha anche usata quella lì, mi, cavolo, non ce n'era per nessuno. No, aspetta Antonio, già ho capito. Non Natalina, ma quella che antenna è? Vi manda? Quella che hai visto, che antenna credi di aver visto? No, questa qui è per la 27, già lo so che c'è la carica al centro. Però la mia è bibanda, collineare. più lunga di chissà. Sì, sì, la SG7009, credo si chiami così, della Diamond. Anch'io ce l'ho, però è marca Oxin, quelle generiche. È la copia dei poveri della Diamond, che la Diamond costava 80 euro. La Oxin costava 49 spedita, però la ricezione ce l'ha. Io quando sono andato in zona alta sentivo stazioni remote, cioè c'erano radioamatori di Sassari che in VHF parlavano a stazioni remote che io a casa non sentivo neanche lontanamente, cioè sentivo parlare con questo tale e tali, e da casa nulla, perché io sono dove c'è la sede stradale, no? Ma lassù chissà da dove arrivava poi la zona non l'ho capita, magari dal nominativo dovevo fare attenzione al nominativo, l'avrei capito da dove era, ma io sono distratto e non ci ho badato. Io l'ho messa fuori dalla finestra e ricevo tutto, dimmi tu. Tutto no, perché poi se cioè da su prendevo roba continentale, la scala di Ciocca dove c'è quell'istituto, no? Cos'è? Non mi ricordo lì. Nel punto più alto, no? Dove c'è la Madonnina, lì prendevo roba in VHF, in VHF continentale, riusciva a arrivare quando c'è un po' di propagazione, no? Mentre da casa no, quelle cose nemmeno mi immaginavo di sentirle. Ehi, lo so, aspetta quando te la salgo su insieme alla X30 e all'altra. Che viviamo. Via. Antonio, riprendi. Niente, Luca, riprendi. C'è anche Luca. Ne devo mettere una in punta e tre sotto. E cosa ti fai? I mazzi di antenne sul tetto? Minchia. Va bene, non c'è più nessuno. Antonio, lo riprendi. Andiamo, andiamo, Luca! E non è finita, e metto anche il saliscendi perché dopo ci faccio salire un dipolo da solo con l'altra bandiera. Su e giù metti anche. E beh, e se no non c'è scopo, non si ascolta bene, no, con la verticale. Io sono tutto gonfio, mia pompucu. Dice che è tutto gonfio, mi Marco. Allora. Ehi, Antalì, quindi tu hai capito la prova comparativa che devo fare, no? A me la frusta nera non piace. Però voglio capire, proprio fianco a fianco, tanto c'ho l'attacco PL, se ci sono variazioni anche minime, però devo andare fuori, devo andare quantomeno a Porto Torres, a Balai, se vogliamo avere prove affidabili, non dentro la città, capito? Infatti, questo microfono mi sta rompendo le scatole. Andiamo e andiamo. Ah Luca, ho controllato, anche ricontrollato anche nel garage, ma questa cosa non salta fuori. Che devo fare? Non fa nulla, pazienza. Io la volevo perché mi volevo conservare il 2009 nella sua scatola originale, pazienza, e adesso chiedo nei gruppi se qualcuno ce l'ha o se la offendono. E cosa? Ma lo sai cosa ho visto su internet? C'è qualche pazzo che vende la scatola del 2009, nuova, tipo 48 euro più la spedizione. Questi sono scemi, sono malati. C'è un pezzo di cartone colorato e magari ci sono quelli altrettanto scemi che spendono roba con la spedizione, viene roba di 50, 70 euro per una scatola di cartone. Natalia, la scatola del 2009 mi serviva. Avete parlato ancora in due. Natalino, vai tu. Ho detto, vuota poi, fosse stata piena. Va. Sì, vuota, credo che addirittura sia vuota senza la parte interna sagomata dove mette il baracchino. C'è proprio la buccia della scatola. Questi sono matti, mi pare dall'Inghilterra, credo di averlo visto. Ma poi, Luca, uno Smithers di 3.930 euro più 15 o 20 euro di spedizione, tipo dall'Inghilterra. Cioè, A me per fortuna me l'ha regalato Gianni per metterlo nel iPhone. Me l'ha regalato Gianni, da. E niente. E poi mi sono acquistato la frontalino e i coppetti da Gianni, nuovi, dei miei sono sicuro. Mi sono solo una scatola e basta, infatti questo lo voglio conservare, ma lo userò più avanti e voglio utilizzare il iPhone. Questo vecchio ho attaccato anche l'antenna, l'ho già imbrigata. E la conservo quella, adesso vediamo. Eia, poi controllo anche nella cantina, come la vogliamo chiamare, poi se la trovo te la passo, quella blu la tengo, magari quella che di questo omologato la tengo, però io due ne avevo, qua sparisce la roba, vabbè. Ti è sparito pure l'accordatore, gatta, e mi devi umagnata che sta bassona. Oh, quello dell'accordatore ce l'ho ancora, non lo posso variare, come si dice, scomparso. Io me l'avevo venduto e me lo sono dovuto ricomprare. Ma non ti preoccupare, se ce l'hai bene, se non fa nulla, tranquillo. Era conservarlo bene, capito? Tutto qua. Pazienza, là. Adesso vedo un po' domani, mi procuro, dovrei averne di quel, come si chiama, di quella plastica con le bolle. Lo involgo bene, lo conservo così. Comunque, proprio a questo proposito, in caso di vendite future, come vedete, cioè la gente si vende di tutto a caro prezzo, cioè se tu c'hai il 3009 con la scatola originale, tutti gli accessori originali, la staffa e i pomelli, te lo pagano molto di più, cioè se trovi proprio l'amatore, il fissato che lo vuole a tutti i costi senza badare alla spesa, con la scatola te lo paga ancora di più. Trovando proprio l'amatore, il fissato, non dico adesso, ma fra 10 anni, quando saranno rari, proprio rari da trovare, che nuovi non ne trovi più, Luca, nuovo non ce l'ha più né la Spagna, né nei venditori italiani, né i francesi, niente, 3009 nuovo di negozio non c'è più. No, ma io non le devo vendere, Marco, tranquillo, che me lo tengo io, no, non lo do, questo è nuovo, questo è l'unico nuovo che ho, no, non lo do, mi interessa, no, ci rimane lì. Finché la passione mi rimane, lo tengo io, poi quando sarà, lo metterò da parte come fanno tutti. Non ne prendo proprio, zero completamente, ma lo tengo e basta. Ce l'ho io, ce l'ho con la scatola e tutto, omologato. Luca, mai dire mai, metti che dai l'esame, diventi radiatore e passa ben altro che baracchini. Ah, guarda, non mi interessa, magari forse solo per detenere la radio, mi fare più stazione, magari, sei più tranquilli. La futassa mi devi stare radioamatore. Ti diverti più, però ci vogliono un bel di soldi. Quello sport è per ricchi. Ora come ora non mi interessa, magari quando avrò più un'età avanzata, magari ci farò un pensierino. Mai dire mai, chi lo sa, magari ti entrano soldi, puoi organizzare una stazione buona, se hai la passione è come se ti viene la voglia di dare l'esame. Poi in questo periodo che ti fanno 4-5 domande, se azzecchi le domande è fatta, capito? Poi vabbè, bisogna vedere appunto se uno c'ha spazio per esempio qua in condominio. E me ne basta già la gana, cioè solo quello mi ha smontato, eccetera. Voi più tutto il resto, dai. E a me altrettanto, perché io non dove me le piazzo tutte le antenne? Se la piazzo bene la cosa, se no non ti piazzi quella solita, quella multibanda verticale, la CP6, così arrivi da qui alla triglia. che poi è quella che avrei messo io, me. Ma non puoi fare quasi italiani e boh, non vai oltre. Non è detto, con la propagazione già va. Sì, ma guarda che la